E siamo così arrivati alla fine di questo appuntamento con l'alfabeto del risparmio. D come donne è la lettera a cui oggi ci siamo dedicati. Ringraziamo ancora Claudia Segre, che è presidente di Global Thinking Foundation, e Mariolina Coppola, presidente di Sor Optimist International Italia, per il contributo che hanno dato al nostro percorso. La consapevolezza e l'indipendenza economica sono il punto di partenza per qualsiasi donna, dalla fine del percorso scolastico fino all'ingresso nel mondo del lavoro. Grazie alla digitalizzazione ci sono tante associazioni a disposizione delle donne, come quelle che abbiamo ascoltato oggi. La formazione e le informazioni, insomma, non mancano. Agire, informarsi e non lasciarsi prendere alla sprovvista devono essere la parola d'ordine. Ci lasciamo allora con questi punti fermi, con un saluto particolare a tutte le donne all'ascolto, e naturalmente vi invitiamo sempre a visitare il portale del Comitato per l'Educazione Finanziaria, quellochecontagov.it, così da trovare contenuti interessanti e informazioni pratiche per intraprendere il vostro percorso di consapevolezza. Noi torniamo presto con la prossima puntata, ma continuate anche a seguirci su www.radio24.it. Allora un saluto da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. In collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.